5D. Ascolta e rispondi. Come stai in questa città? Ci sto bene. Come sei andata a Roma? Ci sono andata in macchina. A che ora sei entrato in aula? Ci sono entrato alle 9. Da quanto tempo abitate a Milano? Ci abitiamo da un anno. Quanto tempo rimarrete in America? Ci rimarremo 2 anni. A che ora siete arrivati al concerto? Ci siamo arrivati alle 21:00.